semplice, mangio cibi semplici, resto in modo semplice, vedo luoghi semplici, sono un tipo semplice, leggo storie semplici, ti amo in modo semplice, scrivo frasi semplici. Sono un tipo semplice, cerco strade semplici, vivo in modo semplice, mangio cibi semplici. Sono un tipo semplice, canto storie semplici, ti amo in modo semplice, suono note semplici. Thank you.